Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e inizia da dove è iniziata la settimana, e cioè nuove tensioni, l'avete appena sentito nel nostro GR, nuove tensioni sugli spread, nuovi record per quello che riguarda l'Italia, l'Ungheria a rischio default dopo che insomma le è stato abbassato il voto sul debito e anche la dichiarazione fortissime di oggi di Sarkozy, Nicolas Sarkozy e Angela Merkel, che dopo aver ribadito la piena fiducia nel presidente Monti, nel suo governo e il sostegno all'Italia, dicono di essere consapevoli che un nostro crollo, cioè il crollo dell'Italia, porterebbe inevitabilmente alla fine dell'euro, provocando uno stallo del processo di integrazione europea dalle conseguenze imprevedibili. Questo lo ha reso noto un comunicato di Palazzo Chigi. Aumenta la richiesta a Mario Monti nel frattempo di fare presto, così utilizziamo anche il famoso titolo ormai del Sole 24 Ore, e sempre nel comunicato del Consiglio dei Ministri viene sottolineato come Monti abbia ribadito l'impegno a rendere il consolidamento fiscale e renderlo attuato in tempi rapidi con misure di impulso alla crescita. Aspettiamo con ansia i tempi rapidi, ripeto la linea, è che non si può pensare che in due settimane uno prepari tutto, però più passa il tempo più c'è bisogno di segnali, quantomeno sull'agenda, quantomeno rispetto a quello che veniva chiesto ieri in conferenza stampa a Mario Monti, visto che Sarkozy e la Merkel hanno definito fenomenale, straordinario il piano presentato da Monti, vorremmo sapere anche noi qual è e quali saranno le direttrici di intervento. Parleremo anche di Fiat, perché sempre come ricordava il nostro GR, domani è stato convocato un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, quindi da Corrado Passera, domani mattina alle 10 in Vitalia, che è l'advisor del Ministero, e i sindacati si incontreranno sullo stabilimento di Termini Imerese. Secondo alcune fonti, ma ne parleremo più avanti, Fiat sarebbe disponibile a mettere sul piatto risorse che mancavano per la mobilità incentivata, e questo è l'altro grosso tema di oggi. Qualche dato ve lo racconto invece come sempre nelle notizie in breve, non prima però di avervi dato l'aggiornamento su Piazza Affari, che è tornata in positivo, più 0,22, Parigi più 1,5, Francoforte più 1,5, Londra più 1%, l'America ieri chiusa per festività, oggi guadagna lo 0,70%, l'euro si è indebolito ulteriormente, sotto quota 1,33 a 1,32. Devo dire che le tensioni europee sugli spread, sul debito dei paesi dell'area euro, non si vedono oggi in borsa in maniera netta. Ci sono dei recuperi, delle ricoperture, come si chiamano in gergo, su titoli che molto avevano perso, penso a Finmeccanica, che ha perso il 30% in una settimana, oggi guadagna il 4,5 a 3,11 per azione. ST Microelectronics più 3%, Azimut anch'essa in pesante calo nelle ultime due sedute, oggi guadagna il 2,60%, Saipem il 2,11, in pregiro l'1,90, Parmalat l'1,60, Enel 1,5% come Mediobanca, Eni più 1,1, Mediaset più 1% come Campari. Cala invece Prismian meno 3,92, Popolare Emilia Romagna meno 3,20 come l'Automatica, il 2,70 lo perde Mediolanum, il 2,30 Fondiaria, il 2,1 Fiat, l'1,70% è il calo del Banco Popolare e di Ansaldo STS, ma anche di UBI Banca. Chiudo con il calo della Popolare di Milano e del Monte dei Paschi, che è dell'1,30%. Avevo annunciato oggi un approfondimento sul tema dell'ICI sui beni della Chiesa, chiaramente non le sedi di culto, non le chiese, ma gli immobili e quant'altro. Vista la giornata lo rinviamo alla settimana prossima, perché oggi veramente dobbiamo occuparci di quello che sta capitando sulle emissioni obbligazionarie, ma un accenno lo faremmo. 349-238-6666 per i vostri sms, partiamo subito con le notizie in breve. Arriviamo adesso all'asta dei bot italiani, dei CTZ italiani, del record storico nel rendimento del BTP a due anni, che ha superato l'8%. Comunque, le altre notizie: l'oro è in calo a $1,690, il petrolio è in calo a $95, di Gazprom vi ha già detto il nostro GR, insomma, comunque tutta la rete bielorussa va interamente, di gasdotti, va a Mosca. Gazprom ha firmato un contratto per l'acquisto del 50% della bielorussa Beltrangaz, di cui aveva già l'altra metà, e pagherà 2 miliardi e mezzo di dollari. E in questo modo io vi ricordo che, insomma, attraverso il gasdotto bielorusso controllato da Beltrangaz passa circa un terzo di tutto il gas che arriva dalla Russia all'Europa. E poi un crack che è il più forte crack di un'impresa tedesca da due anni a questa parte. Manroland, terza impresa al mondo nel settore delle rotative, ha dichiarato lo stato di insolvenza. Praticamente appartiene in gran parte al gruppo Allianz e ha 6.500 dipendenti che a questo punto si trovano a spasso, e mi dispiace assolutamente per loro. Appunto, insolvenza totale per il terzo gruppo al mondo nel settore delle rotative, il gruppo tedesco. Ancora l'Ungheria, partiamo subito con l'Ungheria, adesso vi arriviamo, vedo molti messaggi su questo. Di Sarkozy e Merkel vi abbiamo detto, ci sono alcune dichiarazioni interessanti del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, perché oggi ha detto: attenzione, l'acuita tensione sui mercati finanziari negli ultimi mesi ha reso precario l'equilibrio del debito pubblico italiano, che veniva assicurato in questi anni dai bassi tassi di interesse. E poi è intervenuto anche sui giovani: i salari di ingresso nel mercato del lavoro sono oggi in termini reali identici a quelli di 10 anni fa, e quindi, secondo Visco, i giovani che si affacciano oggi sul mercato del lavoro sembrano esclusi dalla crescita di reddito che invece c'è stata per molti altri lavoratori, penso alle partite IVA, ai lavoratori autonomi, ma non solo. E poi il dato sul commercio. Dunque, il dato di oggi sulle vendite al dettaglio, settembre, meno 0,4%, meno 1,6% rispetto ad agosto, meno 1,6% rispetto all'anno scorso. Attenzione, il dato è grezzo, bisogna considerare anche l'inflazione, per cui alla fine si va a un meno 4% in termini reali come vendita al dettaglio. E vanno male i piccoli negozi, e di nuovo viene confermata una tendenza che vediamo da mesi, cioè anche nella grande distribuzione chi va bene sono soprattutto gli hard discount, quindi dove il cibo, insomma, viene venduto a prezzi più bassi, e anche questo è un segnale. Ieri su questo era intervenuto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, che si era detto fortemente preoccupato per l'aumento dell'IVA. Ascoltiamo questo passaggio. Noi siamo disponibili a metterci intorno a un tavolo per tutti quei provvedimenti che mettono in sicurezza i conti pubblici. Noi manifestiamo questa nostra forte preoccupazione e perplessità verso quei provvedimenti che invece rallentano la crescita fermando i consumi. Siamo fortemente preoccupanti perché l'aumento dell'IVA secondo noi non accelera la crescita, perché ferma ulteriormente i consumi. Sulla tracciabilità noi diciamo chiaramente che innanzitutto bisogna vedere, individuare la soglia che possa consentire veramente di recuperare, di contrastare l'evasione. E inoltre, se si arriva a questa misura, certamente bisogna anche contestualmente abbattere i costi e le commissioni a carico dei consumatori e delle imprese. E sempre sul, sapete che abbiamo iniziato un viaggio nelle varie parti sociali o anche nei rappresentanti di categorie produttive per capire quanto siano disposti a dare, visto che le misure del pacchetto Monti, che da quello che abbiamo capito Monti porterà direttamente in Parlamento, se abbiamo capito bene dovrebbero riguardare un insieme a quasi a 360 gradi, dai pensionati ai patrimoni o comunque all'ICI, a quello che poi riguarda la tassazione sul lavoro. Insomma, dovrebbe esserci dentro di tutto, all'ipotesi sull'IVA. Su questo sentiamo anche il presidente della Confederazione Nazionale Artigiani, Ivan Malavasi, che ha detto: beh, noi abbiamo delle proposte, serve comunque un nuovo patto sociale. Abbiamo messo generosamente a disposizione dell'Italia un progetto di riforme per la crescita, tagli alla spesa pubblica, riforme del fisco e delle pensioni, cessioni di patrimonio pubblico, liberalizzazioni e semplificazioni, infrastrutture ed energia. Sono i cinque ambiti nei quali riteniamo sia necessario incidere con un decisivo intervento riformista. Considero di grande rilevanza il fatto che la prima volta nella storia repubblicana tutte le imprese, le banche, le assicurazioni abbiano trovato convergenza su un progetto comune di rilancio del Paese. Un fatto senza precedenti, ulteriore prova della consapevolezza della gravità della situazione che l'Italia vive. Allora, allacciate le cinture di sicurezza perché ripartiamo con una puntata. Io veramente fra un po', non so, non riusciamo più a parlare di economia reale, di categorie produttive, di imprese. Qui ogni giorno, ve lo dico col massimo sconforto, prepariamo una scaletta del programma che viene regolarmente smontata verso l'ora di pranzo e stravolta alle 16. Per carità, fossero questi i problemi, ma per dirvi quanto sia difficile anche cercare di raccontare l'economia e la finanza in questi giorni al di fuori della strettissima cronaca. Ieri abbiamo messo i tre porcellini per raccontare quella che era la situazione di Mario Monti, la casa di paglia, Nicolas Sarkozy, la casa di legno, e Angela Merkel, la casa di mattoni. Abbiamo anche detto nella favola, però, il porcellino più bravo, e cioè la Germania, li fa entrare gli altri due in casa, non li tiene fuori dicendo forse ti apro, forse non ti apro, intanto arriva il lupo, perché a quel punto gli scommettitori potrebbero divertirsi a dire: mangerà il lupo i porcellini oppure no, se quell'altro non li fa entrare. Li fa entrare e poi gli spiega che hanno sbagliato a costruire la casa troppo leggera. Questo sarebbe un atteggiamento responsabile della Germania nei confronti degli altri paesi europei, altrimenti quella favola lì sarebbe una favola in un massacro, una macellazione di porcellini. E non è questo a cui vogliamo arrivare. Oggi vediamo se riusciamo a spiegare con un altro esempio come sta messa l'Europa, cioè i paesi dell'area euro, e a noi purtroppo non saremo molto originali, è venuto in mente il Titanic, ma non quello dei due che si baciano sulla prua della nave, il Titanic di De Gregori. Se costa 1.000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore dal boccaforte, odore di mare morto. Eh sì, noi saremo anche la terza classe, però l'abbiamo già detto, attenzione che se poi il Titanic va giù anche la prima classe, ricordasse Angela Merkel. Allora, che cosa è successo oggi? Rischio di fallimento in Ungheria, praticamente il premi pagati sulle polizze per assicurarsi sul rischio di fallimento in Ungheria sono schizzati a livelli di guardia, ma non è questo, a mio avviso, adesso lo chiederò al nostro ospite, che ha determinato quello che è capitato oggi sul mercato delle obbligazioni. Bretagna col bicchiere fra le mani. Con il ghiaccio dentro al bicchiere. Che è successo? Stamattina lo spread, questo mitico spread, più da spritz oggi che da spread la giornata. Comunque del BTP è volata di nuovo sopra i 500 punti. La Banca Centrale Europea si è messa allora a acquistare titoli italiani. Il Tesoro ha collocato alle 11 e un quarto un'asta, ha dovuto collocare 6 miliardi di 8 miliardi di botta a 6 mesi e anche 2 miliardi di CTZ, 10 miliardi in tutto. Allora, sia nei bot a 6 mesi che nei CTZ, rispetto a un mese fa, così capiamo cosa vuol dire questo spread concretamente, l'Italia per trovare dei compratori ha dovuto offrire il 3% in più, cioè il 6,5% di rendimento sui bot a 6 mesi rispetto al 3,5% di un mese fa e il 7,80% di rendimento sui CTZ rispetto al 4,60% sempre di un mese fa. Questo mare nero. Ora non ci vuole un genio per capire che se tu offri il 3% su 100 miliardi sono 3 miliardi, su 200 miliardi che sono le scadenze a breve, sono 6 miliardi in più solo di interessi sul debito. Ma non basta, la differenza poi è salita a 511 punti, non siamo ancora al record dello scorso 11 novembre che fu 570 punti, ma ci siamo vicini. E poi la cosa che a me personalmente preoccupa di più. La inversione della curva. Per non morire si va in America. Il BTP a due anni è volato all'8%, al massimo da quando è nato l'euro. Rende di più, o meglio, tocca l'Italia, costa di più all'Italia trovare compratori per un debito a due anni che un debito a 10. Questo è paradossale, perché nella vita, se un vostro amico viene e vi dice mi presti i soldi, te li do fra due anni, gli chiede una certa percentuale. Se gli dice te li do fra 10 anni, hai voglia, chissà dove sei fra 10 anni, chissà dove sono io, chissà se ci sono, e quindi gli chiede un interesse più alto. Questa è la norma. Invece adesso sta capitando che per avere un prestito a 2 anni ti chiedono un interesse più alto rispetto a 10 anni. Moria Longo del Sole 24 Ore è nostro ospite purtroppo anche oggi. Moria, buonasera. Io ti ringrazio per il purtroppo. No, purtroppo buonasera, non è riferito a te, che tu vieni sempre a parlarci di spread, di rendimenti, di curva che si inverte, e qua ci invertiamo anche noi fra un po'. Allora, che cosa vuol dire l'inversione della curva? Significa che il mercato è molto spaventato sul breve periodo. L'inversione della curva si vede tra i titoli stato a 2 anni e quelli a 10 anni, ma ti dirò di più. Attualmente, in questo momento, un bot a 1 anno ha un prezzo, ha un rendimento superiore al 10% come denaro. Cioè, è un rendimento virtuale perché non ci sono scambi, ormai nessuno, cioè, non c'è più, non si incontrano più domanda e offerta. Però è questa la quotazione attuale. Questo cosa vuol dire? Che se è virtuale, come fanno a stabilirlo? Curiosità mia. Sono i market maker, le banche che fanno prezzo sul mercato. In questo momento danno un rendimento del bot a 1 anno al 10% come domanda e al 3% come offerta. Cioè è il contrario in realtà. Sì, chiaro. Questo vuol dire che comunque il mercato è completamente congelato in questo momento, il mercato secondario, diciamo la borsa tra virgolette dei titoli di Stato. Comunque l'inversione della curva dei rendimenti, cioè il fatto che i rendimenti dei titoli più brevi siano più alti rispetto ai rendimenti dei titoli più lunghi, significa che il mercato è talmente sfiduciato sul breve periodo, non vede una soluzione a questa crisi a questa crisi europea, che ormai non è più solo italiana, greca, spagnola, ma è europea, e ovviamente ha molta più paura sul breve periodo che sul lungo. Cioè la domanda è: ce la farà l'Europa a superare i prossimi mesi e troveranno una soluzione a questa crisi che ormai è europea e coinvolge tutti? Io condivido la canzone del Titanic, perché la Germania è assolutamente dentro la stessa barca. Se lo volesse capire anche lei, guarda. Il problema è che non lo capisce la Merkel, ma non lo capiscono probabilmente neanche i cittadini. Oggi c'era un'agenzia che raccontava di Olli Rehn, commissario europeo, che ha incontrato alcuni imprenditori tedeschi, i quali sono tutti completamente in disaccordo con l'ipotesi di un eurobond, cioè di un'obbligazione collettiva collettivo europeo, un titolo di Stato europeo collettivo, perché ovviamente abbasserebbe i costi per l'Italia, per la Spagna, per la Grecia, ma alzerebbe il costo del finanziamento per la Germania. Quindi loro vedono solo la loro parte della frittata e quindi loro sono contrari a qualunque ipotesi ad aprire la porta dei porcellini, come tu dicevi prima. Sì, nel senso che, ripeto, anche qui si può coniugare, a mio avviso, rigore e punizione. Torniamo alla favola, che forse è utile, e dire la prossima volta la casa la costruisci più solida, perché non puoi avere il debito che hai, lo devi ridurre, devi spendere di meno se cresci poco, non puoi mantenere un pubblico impiego così costoso, non puoi avere l'evasione fiscale così alta e via discorrendo, però intanto ti faccio entrare in casa, perché davanti fuori c'è il lupo che di solito non va per il sottile. Sì, il problema attuale è che il mercato non ci sta dando più tempo. Ogni giorno i rendimenti dei titoli di Stato salgono, a un certo punto il punto di rottura si raggiungerà. Quello che serve è un'inversione di tendenza immediata, quindi un'iniezione di fiducia immediata, e questo, secondo tutti gli economisti, possono farlo solo due cose. Da un lato la Banca Centrale Europea, certo, che inizia a stampare monete, a comprare titoli di Stato dei paesi in crisi; dall'altro l'eventuale Eurobond, quindi mettere insieme tutti i titoli di Stato, farne uno unico dell'area euro, e questo ovviamente ridurrebbe il costo del finanziamento per i paesi che in questo momento ce l'hanno altissimo. Questo ovviamente non prescinde poi dalle riforme strutturali che dovrebbero venire, però sono cose che si fanno nel medio termine, non è che si può fare la riforma delle pensioni oggi e domani fare entrare in vigore. Secondo molti economisti, poi avremo ospite anche oggi un altro amministratore delegato di una banca importante, se la Banca Centrale Europea in questo momento dicesse garantisco io, già basterebbe questo, non servirebbe nemmeno comprarli, per bloccare buona parte della speculazione di chi dice, beh, che non è speculazione, sono molti anche fondi pensione che non si fidano più dell'Europa. Ma voi immaginate se foste un giapponese o un canadese che sta gestendo le pensioni di decine di migliaia di insegnanti metalmeccanici o impiegati, a voi rischiereste in questo momento di tenere i soldi investiti in euro con il casino, scusatemi il termine, che stanno combinando i leader europei, che non riescono a mettersi d'accordo su niente praticamente? No, probabilmente se fosse un fondo pensione canadese direi, sai che c'è, l'investo da un'altra parte. È questo che sta capitando, al di là della speculazione brutta, sporca e cattiva. Avete ragione a dire che potevo fare un altro paragone, perché se presti i soldi a un amico mica gli chiedi gli interessi, diciamo a uno sconosciuto, non ad un amico. C'è un caso che sta scoppiando di nuovo in Europa e lo stanno riprendendo molte agenzie e siti, l'ipotesi che la Germania stia realisticamente ragionando sul nuovo marco, un conio di una nuova moneta. Non si capisce se un euro forte di serie A con dentro Finlandia e Olanda o un nuovo marco tout court. Detto ciò, addirittura secondo varie agenzie sulle intenzioni di Berlino sarebbero informati sia l'ex premier Silvio Berlusconi che il neo premier Mario Monti. Di questo parliamo, e anche di questo dopo il meteo e la pubblicità, perché vorrei capire con Moria quanto ci sta costando questo indebitamento, e soprattutto oggi la Spagna, per esempio, ha annullato il collocamento di un nuovo titolo di Stato a 3 anni. Doveva collocarlo il 1° dicembre, ci ha rinunciato. Ora, la Spagna magari può anche rinunciare per un po'. Noi qua abbiamo 200 miliardi in scadenza nei prossimi mesi. 349-238-6666 per i vostri sms, meteo, pubblicità e poi di nuovo in diretta. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commentiamo anche la borsa. No, non male alcune battute, alcune cose che avete scritto al 349-238-6666. A parte che c'è chi dice nella favola originaria dei tre porcellini venivano sbranati. Oddio, io, questa è una versione horror, mai sentita questa. E invece chi dice no, finirà così, finirà che verranno sbranati, il lupo si mangerà i due porcellini fuori, cioè Italia e Francia, e poi prenderà l'ascia, spaccherà la porta e si mangerà pure il porcellino tedesco. Il tema è serissimo, perché io veramente non riesco a capire dove voglia arrivare la Germania, pur capendo tutte le perplessità, visto che esporta tra il 60 e l'80% del suo made in Germany in Europa. Se qui, come circola oggi di nuovo sulle agenzie, stanno pensando di fare il nuovo marco, il nuovo marco avrà una forza enorme. Cosa esporti? Boh, non lo so, me lo chiedo. Noi per carità ci beccheremo un'inflazione importata impressionante, però magari esportiamo un po' di più. Sui tedeschi, auguri. Comunque, Moria Longo, l'ipotesi, il BTP Day di lunedì se ne occuperà anche Deborah Rosciani. Tra l'altro voi come Sole 24 Ore domani uscirete con il famoso manuale antipanico, per cui proteggere i risparmi con i BOT a 6,5, e anche il libro Tutto Banca, cioè le parole chiave, è il nono libretto, la nona puntata sulle parole chiave per difendersi allo sportello senza ricorrere alle armi, aggiungo io. BTP Day, può avere un senso comprare le obbligazioni italiane da parte dei privati? Ovvio che non risolve problemi, però dal mio punto di vista un aiutino lo può dare, comunque un segnale che si dà di un'unità d'Italia, di un popolo che risponde a una crisi. A una crisi fortissima. Io sono del parere che da questa crisi vada risolta innanzitutto in Europa, ma ognuno deve fare la propria parte. Gli stati nazionali come l'Italia devono fare la propria parte, l'Italia deve fare tutte le riforme che il mercato ci impone, e non il mercato, il buon senso ci impone, e anche i cittadini nel loro piccolo ognuno può fare la propria parte, per cui io non sono negativo su questa iniziativa. Anche la nazionale di calcio oggi ha detto giochiamo per l'Italia, andremo al BTP Day, no? Però attenzione, non vorrei che si generassero troppe illusioni, cioè l'intenzione è meritoria e lodevole, però in mano ai privati ci sono solo il 16% dei nostri BOT BTP. Complessivamente l'Italia ha il 40%, Moria, correggimi se sbaglio, sì, del debito ce l'abbiamo noi in casa, sì. Ma non è che le banche te lo vanno a vendere adesso il BTP, perché perderebbero parecchio se l'hanno comprato. Si potrebbe partecipare a nuovi collocamenti, ecco, alle aste, per esempio oggi l'asta di oggi che ha avuto rendimenti altissimi, però parlando con alcune banche mi dicevano che c'è stata domanda anche da risparmiatori o da fondi, comunque anche da risparmiatori, quindi questo è un buon segno, anche perché in effetti i rendimenti sono altissimi in questo momento. O si scommette veramente sul crack dell'Italia, allora è meglio non comprarli, oppure se si pensa che l'Italia e l'Europa ce la possa fare, sono rendimenti così alti, vabbè, che è anche un investimento, cioè rispetto a un Bund, oggi un titolo di Stato tedesco a 6 mesi rende lo 0,045%, un titolo di Stato italiano a 6 mesi rende il 6,5%, quindi la differenza è abnorme, per cui potrebbe anche essere un investimento intelligente da fare. Ovviamente tutto dipende da cosa accadrà in futuro. Allora, vedo molti messaggi sulla eventuale ristrutturazione del debito italiano. Non ci voglio neanche pensare, perché alcuni dicono bisognerà fare come la Grecia, così la finiamo con questo stilicidio quotidiano. Attenzione, ristrutturare il debito vuol dire che il 100 euro di bond, botto BTP diventano 70, 80, 60, la Grecia è andata al 50%. Questo significa tracollo per le banche che li hanno in pancia, ma immaginate anche sui risparmi degli italiani. Qualcuno se lo ricorda, l'Argentina? Ecco, l'Argentina ristrutturò in maniera molto massiccia fino al 70%. Cioè, la ristrutturazione è veramente l'ultima ratio, è l'elettroshock che dai al paziente, Moria. Sì, no, in realtà la Grecia ha fatto una ristrutturazione, non un default, e la differenza non è di poco conto, perché la ristrutturazione è volontaria, cioè l'investitore decide se aderire oppure no, quindi se ridursi del 50% il valore del proprio investimento. Detto questo, tutti gli economisti sanno che la ristrutturazione greca, seppur dura del 50%, non servirà a molto, perché la Grecia alla fine di questa ristrutturazione avrà comunque un debito che rapporto al PIL sarà superiore al 120%, che è il livello per cui adesso l'Italia è sotto attacco dai mercati. Per cui anche la ristrutturazione può non avere effetto se la situazione è molto grave. Quello che bisogna fare è una riforma dell'Europa, e tutti guardano alla Banca Centrale Europea. Ma non c'è verso, ieri Angela Merkel ha detto, c'è quel passaggio bellissimo, magari lo faccio riascoltare, in cui dice ai giornalisti, forse non mi sono spiegata bene, ve lo spiego, magari eravate distratti, sull'euro bond non è cambiato nulla, non se ne parla, e anche sulla Banca Centrale Europea di modificare lo statuto non se ne parla, Moria? No, i tedeschi in questo momento hanno un beneficio da questa crisi, perché loro si finanziano sia lo Stato ma quindi anche le imprese a tassi bassissimi, quindi un'impresa tedesca, oltre ad esportare tanto, la Germania è il secondo esportatore al mondo dopo la Cina, ma ha la possibilità di dare alle imprese denaro a basso costo, perché essendo bassi i tassi in Germania, tutti i tassi per tutti sono bassi, per le banche, per lo Stato e per le imprese, e quindi ovvio hanno un vantaggio competitivo. Loro adesso vedono solo il vantaggio per loro e vedono l'Italia, la crisi europea, come un problema, come una gagna che non vogliono risolvere. Il problema è il dopo, come dicevi tu prima, se la Germania tornasse al marco, tutti quei vantaggi forse non ce l'avrebbero più, anzi le esportazioni verrebbero tagliate. E quindi è questo probabilmente che la Merkel dovrebbe ricordare al proprio imprenditore. Sì, io non è che non l'ho trovata di una lungimiranza eccessiva. Ripeto, avessimo salvato la Grecia un anno e mezzo fa, stavamo a parlare di altro e non ci. Non viene un'altra parola che non sia volgare, e non ci stancavamo a parlare di spread. Alcuni scrivono, dunque, questo messaggio lo leggo col beneficio del dubbio, però scrive un ascoltatore che. Dov'è che me lo sono perso, ne stanno arrivando a centinaia, sul Domenicale del Ticino, guarda se riesco a trovarlo, hanno scritto sul giornale Domenicale del Canton Ticino che la Germania starebbe stampando nuovi marchi segretamente appunto in Svizzera. Ora io così come la leggo ve la do, però attenzione, prendiamole con il beneficio del dubbio. La Merkel di ieri, me la fate sentire? La mia opinione rispetto a ieri non è cambiata. Se noi facciamo il primo passo verso l'unione fiscale, quindi abbiamo un patto di stabilità più forte, di crescita più forte, allora è un passo in avanti, ma non è la prerogativa per cambiare la mia posizione, come ho già detto ieri. E naturalmente ognuno ha la propria struttura, il proprio bilancio, e comunque rimane il principio che il patto di stabilità e di crescita deve essere salvato e rispettato, e questa lesione al trattato non può essere accettata dalla Germania, e la Germania farà tutto perché tutto quello che eviterà che ciò possa accadere, ed ecco perché io ho questa posizione nei confronti dell'euro bond. Quindi non c'è nessun cambiamento rispetto a ieri. Grazie Mario Longo, chiarissima ieri, ma ve l'abbiamo fatta risentire volutamente. Angela Merkel, hai fatto bene a far notare che in questo momento le imprese e i cittadini tedeschi hanno prestiti a tasso bassissimo, il 2%. Da noi invece si è bloccato tutto, i tassi sono all'8-9%, quando te li danno i prestiti, quando ti rifinanziano linee di credito, e alcuni ascoltatori segnalano che le banche hanno chiesto di rientrare rispetto al prestito concesso. Che dire, potrebbe anche andare peggio. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Traffico, la borsa e poi la Fiat. Grazie Mario Longo. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, la borsa, tanto oggi facciamo rapidamente, più 0,12% Milano, più 1,20 Parigi, più 1,20 Francoforte, più 0,60 Londra, la faccio io oggi, mi dispiace ma vi dovrete accontentare. Finmeccanica più 3,5, Impregilo più 2,30, Estima Electronics più 2,20, Azimut più 2%, Enel Green Power più 1,90, Saipem più 1,60. Su Finmeccanica è inutile girarci attorno, ieri il Consiglio di amministrazione ha indetto un incontro straordinario il 1° dicembre per discutere delle deleghe, e si va verso l'addio di Guarguaglini, e la borsa, piace o non piace, festeggia. Eni oggi ha fatto un più 0,80%, ma la cosa interessante è che ha annunciato di essere tornata quasi a regime nella produzione di greggio in Libia. Le banche, abbiamo parlato fino adesso dello spread, e chiaramente le banche restano molto contrastate. Banche che vanno bene bene bene non c'è niente, Generali guadagnano 1,15, Unicredit lo 0,86%. Banche che soffrono ancora: Popolare Emilia Romagna meno 3,30, il Banco Popolare meno 2,30, Ubibanca meno 2,1, Monte dei Paschi meno 1,80, Intesa meno 1,5%, Popolare di Milano meno 1,20%. Il peggior titolo però è Prismian, l'ex Pirelli Cavi, meno 4,70%. Lì insomma c'è un ragionamento di vari analisti e case d'affari sul rallentamento economico, che cosa produrrà per Prismian. L'automatica meno 3,51%. Su Seat Pagine Gialle, titolo poco non lo copriamo, ma va abbastanza bene perché più 4,66% nel finale, su voce di un accordo sulla trattativa per ristrutturare il debito. E infine, vogliendo dare un dato un po' più di nicchia, Cobra Automotive va male, perde il 25%, però appunto è l'ipotesi, cioè l'aumento di capitale con un forte sconto deprime chiaramente il titolo. La cosa interessante però è l'andamento generale di borse. Le borse si sono riprese nel finale perché sono circolate voci che vi possa essere un intervento della Banca Nazionale Svizzera. Gli svizzeri ci vengono a salvare. Una nota a chi ha scritto sul nostro sito Facebook che io ieri ho invocato l'invasione del Lussemburgo, del Liechtenstein, era una battuta. Ho solo detto che avere le Cayman in casa in questo periodo non mi sembra al massimo, visto che là ci sono centinaia di miliardi di euro di soldi. Il riferimento era ai coniugi di Veneti ieri, che dichiaravano 6 euro all'anno e ne avevano qualcosa come 200 milioni proprio in Liechtenstein. Era una battuta, invadiamo il Lussemburgo. Non ve la prendete. Adesso però parliamo di Fiat. Andrea Malan, aggiornaci sulle aperture, nel senso che ieri ultimo giorno di lavoro a chiaramente a Termini Imerese, ma Passera, il ministro Passera ha convocato per domani Invitalia e i sindacati. Gira voce che Fiat potrebbe mettere altri soldi sul piatto, Andrea. Sì, domani potrebbe essere la giornata decisiva, anche se abbiamo assistito nelle ultime settimane a diversi rinvii. Il tavolo vede ancora appunto un disaccordo sulle modalità di accompagnamento alla mobilità di una parte dei dipendenti, e poi c'è sul tavolo appunto il piano in base al quale tre società, tra cui soprattutto la DR Motor di Isernia, dovrebbero riprendere una parte dell'attività. Non è detto che si chiuda domani, e le prospettive, anche date le condizioni del mercato dell'auto, le prospettive per il prossimo anno sono tutte da verificare. Certo, ovviamente per gli operai di Termini è sicuramente una speranza. La DR Motor ha qualche problema finanziario per conto suo, ha presentato un piano però che è stato validato dal Ministero, che prevede di produrre fino a 60.000 auto l'anno con un massimo di 1.300 operai. 60.000 auto l'anno sono, per dare un'idea, il doppio di quelle che lo stabilimento ha prodotto quest'anno, ma naturalmente una cifra molto inferiore a quelle che Termini Imerese era in grado di produrre 20 anni fa. È arrivato lo stabilimento siciliano a un massimo di quasi 200.000 auto, ed è proprio probabilmente la riduzione progressiva dei volumi che ne ha accentuato l'antieconomicità e quindi ha indotto la Fiat a chiuderlo. Comunque è una storia lunga, diciamo che guardando al futuro sicuramente la speranza per gli operai è che domani sia la giornata decisiva e che quindi si possa avviare poi la fase successiva. Andrea, tu citavi giustamente l'investimento di Massimo Di Risio, nostro ospite anche, su cui appunto bisogna capire quanto solido è l'investimento e se veramente riuscirà a garantire 60.000 auto all'anno con appunto 1.300 dipendenti. Domani ne discuteranno al Ministero. In un minuto, riesci a dirmi, sono circolate delle stime sulle vendite e produzione auto per dell'anno prossimo su Fiat? Sì, Fiat avrebbe, diciamo, sono stime che derivano da un piano di produzione che è circolato di Fiat per l'anno prossimo, che vedrebbe un taglio di circa 150.000 unità in Europa rispetto ai livelli produttivi di quest'anno, con un lieve aumento in Italia derivante dall'entrata a regime dello stabilimento di Pomigliano, dove verrebbero prodotte l'anno prossimo circa 200.000 Panda del nuovo modello, e un calo soprattutto in Polonia, dove non ci sarà più, o praticamente non ci sarà più, la vecchia Panda che uscirà di produzione. È un dato che il Fiat non conferma e che, diciamo, non è totalmente incoerente con quelle che sono le ultime previsioni sul mercato europeo che sono circolate. Diciamo che per l'anno prossimo si conta su un calo compreso tra qualche punto percentuale, 3-5%, o secondo i più pessimisti, o addirittura meno 10 se, come vediamo dalle notizie di questi giorni, la crisi finanziaria dovesse trasformarsi in recessione. E prima o poi toccherà anche parlare delle ricadute, quando saremo usciti da questo tunnel dello spread, delle ricadute sull'economia reale. Molti imprenditori che ci scrivono già le vedono. Grazie Andrea Malan del Sole 24 Ore, il GR, e poi torniamo a parlarne con chi guida una banca importante in Italia. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, riepiloghiamo. La borsa ha chiuso con un leggerissimo rialzo, più 0,12% a Milano, più 1,20% invece a Parigi, più 1,20% a Francoforte. Si sono riprese le borse anche su voci non confermate di un possibile intervento nel mercato delle obbligazioni dei titoli di Stato della Banca Centrale Svizzera. Il tema di oggi però resta quello degli spread, delle tensioni sui debiti. E allora, fermo restando che il numero per i vostri sms è 349-238-6666 e che non ci sono al momento conferme di quello che molte agenzie stanno battendo, cioè che la Germania stia lavorando seriamente sul conio di una nuova moneta, ci scrivono alcuni ascoltatori che in Svizzera è noto che stanno stampando nuovi marchi, io non lo so obiettivamente, diamo solo le notizie verificate e ripercorriamo anche la giornata. E allora ripercorriamola questa giornata, ennesima giornata di passione sui debiti europei. In Ungheria il rischio di fallimento vola ai livelli di guardia. Ieri ha tagliato il voto l'agenzia di rating Moody's da Baa3 a Baa1. Praticamente la cosa più importante però è che i CDS, ossia i premi pagati sulle polizze per assicurarsi contro il rischio di fallimento dell'Ungheria, sono schizzati a 628 punti. Nel 2009, con 10 punti in più, 639, 11 punti, fu necessario salvare e organizzare un piano di salvataggio proprio per Ungheria e altri paesi dell'Europa Est. Solo che nel 2009... c'erano solo quei paesi, adesso abbiamo l'Italia, la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda e poi la ormai mitica, mitologica Grecia. E come va a casa nostra? Di nuovo lo spread è volato a 500 punti in mattinata, la Banca Centrale Europea ha acquistato titoli italiani per capire a che punto siamo. Oggi nell'asta da 8 miliardi di bot a 6 mesi, il rendimento medio, cioè quanto lo Stato italiano ha dovuto offrire per trovare dei compratori, è volato al 6,5%. Pensate che a ottobre, cioè un mese fa, bastava offrire il 3,5%, 3 punti percentuali, sono 300 punti appunto di spread. Immaginate se dovessimo rifinanziare i 200 miliardi che vanno in scadenza con 3 punti in più di rendimento. Solo questo ci mangerebbe 6-7 miliardi di euro in più. E i CTZ con scadenza 2013, anche in questo caso 3 punti percentuali in più. A ottobre bastava offrire 4,6% di rendimento, oggi lo Stato italiano ha dovuto offrire il 7,81% di rendimento. Secondo i trader interpellati dal Financial Times, l'asta dei bot e dei CTZ italiani ha avuto esiti orribili e a questi livelli i costi di rifinanziamento del debito pubblico italiano sono insostenibili, ossia come quando a una famiglia viene concesso un prestito a tassi così alti che difficilmente riuscirà a ritornare il prestito visti i tassi. Immaginate insomma, se voi doveste avere un aumento di guadagni dello 0,1% che è il PIL italiano e invece ritornare soldi che vi ha prestato la banca con tassi dell'8-9%. E poi la curva dei rendimenti, anche qui la spieghiamo. Di solito in un mondo normale rende di più un prestito a lungo termine di un prestito a breve come rendimento annuale. Perché? Perché si dice è più rischioso prestare i soldi e riaverli fra 10 anni che non prestare i soldi per riaverli fra un anno. Fra un anno so che sei ancora vivo, tra virgolette, fra 10 anni c'è maggiore incertezza. Ecco, la situazione è capovolta perché in questo momento rendono di più i prestiti a breve, a 2 anni, e di quelli a 10, ma non perché ci sia un'idea che l'Italia fra 10 anni sarà più affidabile, ma semplicemente perché l'orizzonte temporale si è ristretto, nessuno vuole neanche ragionare a 10 anni. Interessa capire se il debito italiano sarà sostenibile nei prossimi 1-2 anni e il BTP a 2 anni è volato all'8%, che è il livello più alto dalla nascita dell'euro, quello a 5 anni al 7,81%. Dottor Giorgio Girelli, amministratore delegato di Banca Generali, buonasera. Buonasera. Continua il nostro viaggio anche tra i banchieri, li abbiamo avuti l'11 novembre e anche nei giorni successivi per capire come le banche stanno affrontando, banche piccole, banche popolari o grandi banche come nel caso di Unicredito, come il mondo del credito si sta muovendo. Allora, quanto è preoccupato lei? Ma diciamo che la situazione che stiamo vivendo è molto critica, i numeri di oggi che lei ha citato sono molto molto preoccupanti. Io però credo una cosa, che forse può essere anche un po' paradossale questo mio ragionamento, però assistere a un avvitamento, una velocizzazione della crisi a livello europeo, perché non dimentichiamoci che oggi il Bund, il famoso Bund a 10 anni, oggi rende il 2-3, e la Spagna, la Francia e tutto quello che viene dietro, secondo me, e ripeto, questo sottolineo può essere anche un discorso paradossale, però non so fino a quanto, può essere anche un fattore che smuoverà, diciamo, la politica, perché questo ormai è un fattore esclusivamente politico di livello europeo, non più livello nazionale, a prendere delle soluzioni. Ecco, ma secondo lei quello che è successo oggi è la risposta del mercato alla non decisione di ieri tra Angela Merkel, Nicolas Sarkozy e il neo ospite Mario Monti? Cioè, la Merkel ha detto no, ve lo spiego nel caso non aveste capito bene, giornalisti. Non è cambiato nulla sulla mia posizione sugli eurobond, non è cambiato nulla la mia posizione sulla Banca Centrale Europea, quindi non si fanno gli eurobond, non si riforma la Banca Centrale Europea. Secondo lei sono collegate le due cose oggi? Basta dare le risposte perché il mercato fa delle cose è molto difficile, ma c'è una grossa componente di questo. Ma è giusto parlare di speculazione, oppure come risulta a noi sono anche i fondi pensione che non sono degli strumenti speculativi di tutto il mondo che hanno paura dell'euro e escono dall'area euro? Guarda, io l'ho sempre sostenuto da luglio, da quando ho iniziato, e non avevo molti proseliti in questa tesi, ma la speculazione non c'è mai stata in questo senso. Mi scusi? La speculazione non c'è mai stata. Beh, dai, un po' di speculazione. Insomma, quando ci sono i grandi movimenti di mercato c'è sempre speculazione, ma non è il fattore trainante. Questa cosa è iniziata a metà di luglio, quando, come lei ha detto giustamente, i fondi pensione, in quel caso lì a metà di luglio erano i grandi fondi pensione giapponesi e olandesi, hanno cominciato a vendere. Quindi non è speculazione. Sì, poi ripeto, ci si aggancia sempre, perché quando i mercati hanno delle tendenze forti la speculazione si aggancia, ma io non ho mai pensato che questo fosse un fenomeno meramente speculativo. Perché è troppo grande per essere speculativo? Assolutamente sì. Questo è un fenomeno di sfiducia degli investitori sulle radici dell'euro. Assolutamente. Ecco, chiariamo a chi ascolta. Il fondo pensione è un fondo che ha come obiettivo il dare un rendimento ai pensionati, agli insegnanti giapponesi piuttosto che ai metalmeccanici australiani, un rendimento costante nel tempo. Non vuole guadagnare tanto un anno e perdere tanto l'anno dopo. È un fondo pensione, deve ridare la pensione, no? Tu hai accumulato e i soldi che i vari lavoratori versano nel fondo pensione, che poi devono riavere, vengono investiti. Quindi quando escono i fondi pensione esce l'elemento più prudente, tranquillizzante in un investimento. Dico una cavolata? No, è assolutamente così, e tra l'altro questi tipi di investitori sono quanto di meno speculativo si possa immaginare, ma d'altronde questa è la logica del mercato, no? Se io, come nel mercato delle azioni, dell'equity, se io ho delle cattive prospettive su un titolo, lo vendo, non è che necessariamente devo fare delle operazioni long o short, quindi allo scoperto. Allora, di questo vorrei tornare a parlare dopo, chiaramente le informazioni sul traffico. 349-238-6666 per i vostri sms, vediamo se riusciamo anche a rispondere a qualche domanda tecnica. Ripeto, sono solo indiscrezioni di stampa, di agenzia, quelle di una Germania che starebbe lavorando a un nuovo marco, un doppio euro. Traffico 18 minuti. Allora, dottor Giorgio Girelli, che è amministratore delegato di Banca Generali, insomma, secondo lei tutto questo scetticismo di mercati e investitori sull'Europa e la sua moneta, da dove nasce alla fine? L'euro deve essere ripensato proprio nelle sue radici. L'euro è una creazione degli anni 90, coraggiosissima e importantissima per il nostro continente e per tutto il mondo, però si basava su delle ipotesi di convergenza all'interno degli stati, dei rapporti deficit-PIL, del rapporto debito-PIL e tutto quanto ne viene. Invece siamo andati a una divergenza, quindi è ovvio che adesso dobbiamo ripensarlo nelle radici. Sì, magari con un'Europa con le stesse politiche fiscali, con una banca centrale europea che possa stampare moneta. strumento che garantisca in ultima istanza sui debiti europei. Non so se lei se lo ricorda, perché sono passati tanti anni, però quando è nato l'euro, si è detto, ok, facciamo questo salto gigantesco, buttiamo corda all'ostacolo, creiamo un'unione delle valute e poi arriveremo a un'unione politica. E l'unione politica assolutamente doveva passare attraverso l'armonizzazione delle politiche fiscali, ma questo, se lei se lo va a riprendere sui giornali del 2000, del 2001, era scritto chiare lettere. Non l'abbiamo fatto, queste sono le conseguenze. Sì, vabbè, io sono d'accordo con lei come analisi complessiva. Nel presente, però, io mi dispiace essere ripetitivo, ma se un anno e mezzo fa, ad aprile 2010, la Germania avesse capito, e anche la Francia allora, in anticipo, che tanto la Grecia con 100 miliardi di euro la salvavamo, non c'è dubbio, vale l'export greco, vale la provincia di Vicenza, la Grecia vale la Lombardia, voglio dire, però non eravamo in tanti a pensarla così, lo so, però veniva detto no, bisogna dare una lezione esemplare alla Grecia. Il problema è che quando tocchi come nel castello di carte, tocchi un pezzettino, qua si è mosso tutto. Mi dica una cosa però, quanto può andare avanti la Banca Centrale Europea a comprare debito dei paesi a rischio? Perché oggi la banca Barclays ha stimato che la Banca Centrale Europea finora ha acquistato circa 85 miliardi di BTP italiani, 40 miliardi di bonus spagnoli e altri 70 miliardi di obbligazioni di Irlanda, Portogallo e Grecia. Quanto può andare avanti la Banca Centrale? Io non glielo so assolutamente dire, perché non conosco i livelli patrimoniali della Banca Centrale, non so quali sono, come calcolano i loro ratios. Di sicuro io le posso dire che comprare sul secondario, dal mio modo di vedere, è stato kiss of death, cioè il bacio della morte, perché lei ha convinto gli investitori istituzionali che era il momento di vendere. Poi comprare sul secondario serve a molto poco, perché lei sostiene i prezzi sul secondario, ma quello che importa è l'asta del primario, è lì che si fanno i prezzi. Facciamo capire a tutti, quando c'è un'emissione obbligazionaria di BOT o BTP, c'è un'asta che è una vera e propria asta, tipo quella di oggi, e lì chi vuole compra. Poi quelli che hanno comprato possono rivendere quello che hanno comprato, non devono aspettare 2 anni, 5 anni, 10 anni, e questo è il mercato secondario. Vai a rivendere, non, anche in assenza di asta, vai a rivendere quello che hai con altri compratori. La Banca Centrale Europea non interviene a comprare nelle aste, interviene a comprare i BOT già acquistati, già emessi, o i BTP, che si trovano nel cosiddetto mercato secondario. Lei dice, dando questa garanzia, ha permesso a tutti di speculare. Ma non è una garanzia, perché anche lì non si è capito quanto lo faccio, con che intensità, fino a quando lo faccio. Quindi cosa ha fatto? Ha convinto gli investitori che era finché c'è tempo vendiamo. E quindi è da lì che è partito il fenomeno di apertura gigantesca degli spread sull'Italia, ma la Francia, ma l'Austria. Perché evidentemente gli investitori hanno detto, ma sai, tanto c'è qualcuno che compra, perché quando si vende sul mercato tu devi avere qualcuno che compra. Se non sai che c'è qualcuno che compra, stai attento a vendere. Quando, sì. Quindi sul secondario secondo me non serve assolutamente a niente. O la banca centrale fa il prestatore di ultima istanza e vuole dire comprare in asta, o se no non serve assolutamente a niente. Che è quello che tutti chiedono, cioè faccio come le altre banche centrali al mondo, garantisca i debiti. Però ieri Alesina ci ha spiegato giustamente, la Federal Reserve non compra il debito della California o del Texas, compra il debito federale, cioè di tutti gli Stati Uniti. Allora tu dovresti avere dei BOT o di BTP europei, gli euro BOT, gli euro BTP, gli euro bond, ma su questo Angela Merkel non ci vuole sentire. Veniamo adesso alle banche però, dottor Girelli, visto che lei è amministratore delegato di banca generali, voi non fate prestiti alle imprese, fate gestione del risparmio, però insomma è vero che si è tutto bloccato, frozen come dicono in inglese, tra le banche a livello europeo, non vi prestate più una lira? Sì, ma guardi che questo però non è una cosa che è nata adesso. No, lo so, ma adesso com'è? È sempre frozen? Continua a essere come era dal 2008, non esiste più il mercato interbancario, che bello. Solamente la durata overnight, cioè l'overnight vuol dire... Da me definito overnightmare, più che overnight. Sì, la definizione è ottima, esiste solo quello, è stato trovato anche il mercato interbancario collateralizzato, questo nel 2008-2009 non ha funzionato, di fatto il mercato interbancario, allora però tenga conto. Cioè le banche, lo traduco anche qui, non si prestano soldi. Devo fare attenzione a una cosa, le banche, il mercato, il MID, il mercato interbancario, è un mercato come l'MTS, è un mercato aperto. Allora quello che sta succedendo è che molte banche non utilizzano il mercato, il MID, ma si scambiano tra di loro le quantità, utilizzando un mercato OTC, over the counter, cioè comunque lo scambio di liquidità tra le banche è ridotto ai minimi termini. Oh, ecco, restiamo sui termini che capiamo tutti, quindi cioè, tra di loro le banche non si prestano soldi, con la conseguenza, lei mi insegna, che non li prestano neanche a noi o alle imprese. Beh, il fatto che non le prestano al pubblico privato le imprese non è una diretta conseguenza di questa. La conseguenza, cioè il credit crunch, che tra l'altro in Italia oggi non c'è ancora in grande misura, potrebbe esserci se andiamo avanti così, deriva dalle difficoltà della raccolta del cosiddetto funding, no? Cioè che una banca fa sostanzialmente con i conti correnti e con le obbligazioni. Oggi il funding, cioè l'emissione delle obbligazioni sul mercato istituzionale, cioè una banca vende delle obbligazioni e io Banca Generali le compro, non c'è più, quindi per le banche c'è una problematica gigantesca, è l'interbancario che sta creando il problema di credito. Cioè non è il non prestare i soldi e il non raccogliere soldi, se posso sempre tradurre in maniera un po' grossiera. L'interbancario ha delle durate brevi. Ecco, mi dica una cosa però per concludere, voi fate risparmio gestito, no? Ma se io adesso le dessi 1000 euro, lei cosa ne farebbe? Se li berrebbe a champagne? Non chiedo perché. Ma guarda, questa è una domanda che mi sono sentito poco tante volte. Ma immagino, ma dico adesso io vengo da lei e dico: guardi, ho 1000 euro di liquidità. Diciamo, con 1000 euro andiamo fuori a cena e ce li usiamo. Ma mi dica dove va al ristorante con 1000 euro. No, è una battuta. No, diciamo, io credo che un investimento, parliamo di un investimento. Avessi 10.000 euro o va al ristorante anche con 10.000 euro, allora a questo punto. No. Allora, diciamo, un investimento di 10.000 euro io lo utilizzerei francamente con dei conti di alti rendimenti intorno al 4%. Che cosa, mi scusi, non ho capito? Un conto a alto rendimento, quelli che garantiscono il 4%, io 10.000 euro li utilizzerei così. Se invece andassimo, come la maggior parte dei clienti, con patrimoni da 70.000 a 100.000 euro più, per me la parola d'ordine, ma come è sempre stata, è diversificazione. Cioè, sì, ma dove? Perché io non ho capito, diversificare? No, ma ci sono tante scelte, guardi, noi non lo consideriamo mai, ma, per esempio, allora i paesi emergenti, che ormai paesi emergenti, l'unica più grandi di noi, ma i paesi emergenti offrono delle grandissime opportunità in termini di azioni, in termini di reddito fisso, in termini di valuta. Ci sono lei metterebbe i soldi mi è sfuggito come lapsus freudiano, lei metterebbe i soldi nei paesi emergenti, là dove l'economia cresce. E se invece io avessi già investito 100.000 euro? Come? Se invece io avessi già investito 100.000 euro, cosa faccio? Esco adesso? Beh, dipende in che cosa li ha investiti, evidentemente. Molti li hanno in obbligazioni in questo caso. Allora, in obbligazioni, secondo me, dipende se sono obbligazioni corporate o sono obbligazioni di Stato. Io, francamente, sulle obbligazioni di Stato oggi non uscirei. Perché prendi solo perdita. Ci si fa male. Forse su alcune obbligazioni corporate, particolarmente bancarie, cercherei di uscire se ci fosse la liquidità. Ma perché i rendimenti non sono bassi, non ti pagano il rischio a confronto di un rendimento di titoli di Stato, no? Perché il rendimento è fatto, cioè paga anche il rischio dell'investimento, questi non te lo pagano. Quindi io utilizzo, per esempio, oggi c'è gli investimenti nell'area dollaro che possono essere. Non dimentichiamo, oggi il dollaro è andato a 1,32, cioè, ecco, quindi ci sono dei grandissimi movimenti all'interno delle valute. Poi io lo dico, ci sono per esempio le polizze vita, che sono degli strumenti straordinari perché non ti danno la volatilità sul capitale. Poi di questi temi parla spessissimo Deborah Rosciani. Mi dica, nel salutarla, dottor Girelli, lei è d'accordo col BTP Day o è un moral hazard? Cioè, dire lunedì prossimo andate in banca a comprare il BTP che non ci sono commissioni è un atto di nazionalismo, però se poi fra sei mesi toccherà chiedere veramente i BTP, non si rischia di bruciare... Così. Guardi, io devo dire la verità, io non ho capito che cos'è questo BTP Day. Io so che con i risparmi non si scherza e non si fanno azioni tipo... Bravo Girelli. No. Io penso che ci sia un moral hazard, come si dice in inglese, cioè tu inviti adesso le persone a comprare volontariamente BTP. Cosa capiterà se fra sei mesi dovrai chiedere di nuovo invece un prestito nazionale, che chi è rimasto fregato non te li compra più? Questa è la mia personale idea, ma vale nulla. Grazie all'amministratore delegato di Banca Generali Giorgio Girelli. Grazie a voi, arrivederci. E un grazie anche come ogni settimana a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Da Sebastiano Barisoni le auguro di un buon fine settimana comunque, e comunque noi lunedì ci saremo dalle 17 in poi a raccontarvi un'altra settimana di cronaca economico-finanziaria. Radio 24, la passione si sente.